in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come sempre iniziamo dalle prime pagine che oggi sono un pochino più diverse, diversificate di ieri. Ieri abbiamo visto che quasi tutti, tranne il Sole 24 Ore che aveva un titolo molto economico, aprivano con l'inizio dei bombardamenti americani sulla Libia. Oggi il Sole 24 Ore torna sulla questione borsa, perché mentre martedì e mercoledì in borsa si sono registrati dei cali fortissimi di tutti i titoli bancari, ieri è successo un po' il contrario, sia per i singoli titoli che per la borsa nel suo complesso. E quindi il titolo: banche, tregua in borsa, ricoperture dopo i crolli. C'è un accenno anche alle dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan, che è ritornato sull'argomento degli NPL, cosiddetti NPL, che in inglese sta per non performing loans, cioè prestiti che non possono essere i cosiddetti crediti inesigibili, cioè prestiti che sono stati fatti. Loan in inglese vuol dire prestito, ma che non è facile recuperare. E secondo Padoan sono da smaltire, questo è vero, e come sappiamo ci sono i piani, prima di tutto quello per MPS, per smaltirli, ma ha ribadito Padoan: non c'è una minaccia sistemica. Sempre sugli NPL vi segnalo un'analisi richiamata in copertina di Marco Ferrando e Moria Longo. Se gli NPL non sono omogenei, il mercato vuole lo sconto. Non sono omogenei in che senso? Perché come forse sapete, è una cosa di cui abbiamo già parlato, molto tecnica, ma quindi la semplifico estremamente. Quando si dice che gli NPL vengono ceduti o cartolarizzati, vengono poi impacchettati e a volte appunto non sono omogenei, cioè ce n'è di pessimi, di inesigibilissimi e invece di un po' meno inesigibili. Secondo appunto il fatto poi che questi pacchetti di NPL devono essere piazzati sul mercato, però deve esserci una certa omogeneità. Le ultime righe infatti del richiamo in copertina dell'articolo di Marco Ferrando e Moria Longo sono pacchetti all inclusive su cui gli investitori hanno buon gioco a offrire prezzi bassi e quindi inaccettabili. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la notizia dell'acquisizione annunciata ieri, un'operazione da 2,7 miliardi, perché FCA, cioè Fiat Chrysler, sta trattando per cedere una delle aziende che controlla, che è la Magneti Marelli. La cessione sarebbe fatta a Samsung e la notizia ha fatto volare il titolo, che ha guadagnato l'8,2%. Quarta puntata oggi del Focus Estate, l'iniziativa che ci accompagnerà tutto agosto, l'iniziativa del Sole 24 Ore, dove ogni giorno appunto c'è un focus su un tema che riguarda e interessa i professionisti. Questa settimana, questo oggi, giovedì, è macchinari e ricerca, i bonus per gli investimenti. Trovate poi tutto alle pagine 28 e 29. Prima pagina del Corriere della Sera, tutto sommato dedicata ai 5 Stelle, perché da una parte c'è una foto della riunione in Campidoglio di ieri e dall'altra ci sono due articoli di i due massimi esperti, potremmo dire, del Corriere della Sera nel raccontare purtroppo gli scandali italiani, i malcostumi italiani e i problemi economici. 28.000 cassonetti in affitto, Sergio Rizzo ci parla della storia dell'Ama e Gianantonio Stella, il leader che manca ai 5 Stelle. Ascoltiamo però, prima di vedere le altre prime pagine, l'aggiornamento sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del Corriere della Sera e siccome ho ascoltato anch'io l'appello di Isabella Bossi Fedrigotti a sostenere questa sua organizzazione, questa organizzazione di cui lei è presidente, che cerca di dare un futuro alle bambine, in particolare alle bambine nei paesi più sfortunati, allora proprio dal Corriere della Sera, ve l'avrei segnalata più tardi ma approfitto appunto di questo spunto. Dalla prima pagina vi segnalo questo racconto di Monica Ricci Sargentini, che poi trovate a pagina 15, Congo, le bimbe stuprate di notte. C'è un villaggio in Congo, si chiama Kavamu, dove appunto lo stupro, non solo lo stupro seriale, perché nel solo luglio 2010 sono state stuprate, si è saputo naturalmente con un certo ritardo, 242 donne bambine, ma appunto avviene di solito di notte, perché poi c'è attaccato a questo stupro c'è un allucinante rituale di magia. In ogni caso, Monica Ricci Sagentini coglie anche l'occasione per ricordarci come lo stupro sia ormai da 20 anni un'arma di guerra nella Repubblica Democratica del Congo, ma in moltissime guerre, in questo caso guerre africane, ma lo è sempre stato purtroppo anche nelle guerre dei Balcani e anche un'altra guerra, un altro genocidio recente che è quello della Ruanda, anche lì lo stupro era appunto un'arma di distruzione, possiamo chiamarla un'arma di distruzione di massa. La prima pagina della Repubblica, a proposito di violenza sulle donne, in questo caso non sulle bambine, dedica la fotonotizia all'ennesima donna uccisa da un ex compagno, il commento di Michele Serra, quella jihad di casa nostra che brucia le donne libere. Il titolo principale però è dedicato alla Libia perché si sta delineando con maggior chiarezza. Ieri avevamo detto che tutti sapevano che erano iniziati i bombardamenti dei caccia americani sulla Libia, ma non era chiarissimo quale fosse il piano e gli obiettivi, quindi era pieno di ipotesi. Ieri si sono chiarite un po' di cose, tra cui appunto le fasi di questo piano, dovrebbero essere tre. L'Italia e poi è intervenuto il ministro della difesa Pinotti, ha confermato quello che era chiaro, cioè che le nostre basi, che sono le più vicine tra i paesi della NATO, alla Libia, saranno usate, vengono già usate. La stampa invece prende spunto da alcune dichiarazioni del ministro Orlando, il ministro della giustizia di ieri, e quindi è un virgolettato, il titolo principale, l'ISIS sfrutta i migranti in Italia. Infatti, secondo il ministro Orlando, questo è quello che succede. È stata aperta un'indagine dell'antimafia perché l'ISIS sarebbe in grado di indirizzare i flussi di migranti provenienti dalla Libia. La fotonotizia, in realtà, è un collage di tante piccole foto, sono 7, 14, sono 28 piccole foto e sono solo alcune delle vittime dei femminicidi di quest'anno perché dall'inizio sono state uccise appunto da compagni, ex compagni, mariti, 76 donne, nei modi più crudeli e cruenti, come quello dell'infermiera che è morta ieri, alla quale l'ex compagno ha dato fuoco. Il Messaggero anche in questo caso apre sulla questione della Libia e anche in questo caso c'è un virgolettato, però non del ministro della giustizia Orlando, ma del ministro della difesa Pinotti, che ieri ha riferito alla Camera quello che si può sapere, che si può dire su questi bombardamenti sulla Libia. Pronti a concedere agli Stati Uniti l'uso delle basi e dello spazio aereo. Quelli che hanno avuto la reazione più dura sono stati i grillini, che hanno definito questa decisione una follia, e tutta la sinistra invece ha chiesto comunque un voto del Parlamento su questo coinvolgimento italiano. Il Fatto Quotidiano invece, come vi dicevo, oggi le aperture sono molto diverse, si concentra sulla questione della RAI, l'ufficialità non c'è ancora, dovrebbe esserci oggi, però ieri sono circolati, dandoli quasi per certi, i nomi dei nuovi direttori dei TG e secondo tutti i critici sono tutti e tre, a differenza di quanto avveniva fino a l'altro ieri, tutti e tre molto pro Renzi. Questa è la tesi e qui il titolo. Rai referendum, Giannini, Massimo Giannini, ex vice direttore di Repubblica, poi si è dimesso da Repubblica per diventare presentatore di Ballarò. Più volte Ballarò è stato accusato, non direttamente da Renzi, ma soprattutto da Michele Ansaldi, che è un deputato del PD che si occupa di questioni RAI e in generale di informazione, è stato accusato di essere imparziale, cioè a priori contrario alle politiche del governo. Il Ballarò è stato dopo 2 anni, a Ballarò si è deciso un cambio di conduttore, ma c'è chi la interpreta come una epurazione di Giannini, che concede una lunghissima intervista al Fatto Quotidiano intitolata Renzi fa peggio di B, naturalmente è Berlusconi. E addirittura Giannini si paragona al famoso editto bulgaro che fece fuori nel racconto, come ormai viene ricordato quell'episodio. Pose fine al programma di Enzo Biagi, che allora aveva un programma in Rai. E quindi, ma Giannini dice un altro editto, stesso copione, in Rai vogliono il pensiero unico. Avvenire si occupa di Siria in questo caso, non solo di Libia, ma anche se parla naturalmente anche dei raid in Libia e della notizia che ha confermato ieri il ministro della difesa Pinotti, che gli americani useranno le nostre basi. Però Avenire sceglie di concentrarsi sulla Siria, assedio alla speranza. Si intensifica infatti l'offensiva dell'esercito di Assad, fiancheggiato dai russi, contro i ribelli. E c'è una testimonianza da un padre cattolico che vive ad Aleppo, il padre Ibrahim: sono i giorni più terribili. Ma in prima pagina Avvenire mette anche un'altra notizia che quasi, non quasi, tutti gli altri giornali si scordano, che è quella che è uscito il nuovo rapporto di Nessuno Tocchi Caino, che sapete è l'associazione che si occupa nel mondo di abolire la pena di morte. Il titolo dell'Avvenire, che pubblica una foto con una di quelle sedie su cui vengono sdraiati i condannati a morte che vengono uccisi con le iniezioni letali, il boia che non molla, crescono le esecuzioni. Infatti nel 2015 i boia nel mondo hanno ucciso ancora in nome della legge almeno 4.040 volte, quasi 500 in più rispetto alle 3.576 del 2014. Nel 99% i paesi dove ci sono più esecuzioni sono Cina, Iran, Pakistan, Arabia Saudita. E trovate poi tutto a pagina 6 dell'Avvenire. L'unità invece apre sulla questione del femminicidio: uomini che uccidono le donne, il titolo a tutta pagina. Ogni 3 giorni una donna uccisa dal compagno, dal marito, dal fidanzato, dall'amante. Se infatti calcoliamo, dividiamo appunto i giorni, il punto dell'anno in cui siamo per 76, questa è la media impressionante. Contro il femminicidio: agire su educazione, sostegno a vittime di stalker, tutela, sicurezze. E trovate tutto a pagina 2-3. Il paradosso però è, e non mi sembra che l'unità dia abbastanza spazio a questo, trovate questo lato della questione su altri giornali. Il problema è che mentre continuano appunto i femminicidi, continuano anche a chiudere i centri di aiuto alle donne perché non ci sono fondi. Quindi quando si dice che la politica deve intervenire o che il governo deve fare qualcosa e l'Unità è il giornale del PD, forse di questo si dovrebbe parlare, perché spesso le donne che poi sono vittime di queste violenze cercano di scappare, ma devono avere un luogo dove scappare, se no restano prigioniere in casa loro o comunque. Gli ex compagni sanno dove abitano e quindi, se non hanno protezione, purtroppo, come spesso accade, denunciano le violenze, denunciano di avere paura, denunciano che all'orizzonte potrebbe esserci un fatto terribile, che la situazione potrebbe precipitare, ma non succede niente finché non c'è il femminicidio vero e proprio. Libero invece ha un'apertura ancora diversa, anche se collegata al terrorismo: francesi peggio degli islamisti. Perché questo titolo? Perché Andrea Morigi racconta un fatto di cronaca accaduto a Parigi, dove il parroco di Santa Rita è stato sloggiato con violenza perché al posto della sua chiesa ci sarà un condominio. E poi questo viene unito per giustificare questo titolo fortissimo al fatto che pare che sulla promenade di Nizza ci fossero, a pochissimi minuti dalla folle corsa del camion, che ricorderete il 14 luglio ha fatto più di 80 vittime appunto sul viale principale di Nizza sul mare, c'erano già degli sciacalli che rubavano il portafoglio ai cadaveri delle vittime dell'attentato. La prima pagina del giornale invece si concentra, vedete proprio come oggi ognuno fa un po' una scelta personale, si concentra su un aspetto della riforma della pubblica amministrazione, la riforma del ministro Madia. L'articolo di Gian Maria De Francesco si intitola "Altri 150.000 statali saranno pagati per non lavorare". C'è infatti questo pasticcio tra le righe della legge Madia perché gli esuberi delle partecipate finiranno a non fare nulla. Questo è un po', insomma, questi problemi nel fare riforme importanti che eliminano anche molti posti di lavoro. Si ripropone, sapete per esempio che continua a esistere, tant'è che è per questo che di fatto le province esistono ancora, esiste il problema di ricollocare le persone che lavoravano nelle province, che in teoria sono state abolite. E qui ci sarà invece il problema delle persone che lavoravano nelle aziende municipalizzate che dovrebbero essere chiuse. In realtà però un titolo molto forte, un titolo molto forte, quindi un articolo anche molto lungo sulla prima pagina del giornale è del direttore Alessandro Sallusti e riguarda la vicenda del Corriere. Ieri c'è stato un CDA che è stato veramente il primo passo importante per vedere in che direzione vuole andare Urbano Cairo, che ha oltre conquistato, dopo la sua offerta pubblica di acquisto e scambio, il 60% di RCS Group, che controlla tra l'altro il Corriere e la Gazzetta. E vi leggo cosa scrive Sallusti. Si è detto e scritto che la sfida per il Corriere è stata la sfida tra un giovane bravo imprenditore puro, Cairo, e i vecchi, secondo alcuni decotti, salotti della finanza milanese. È vero, ma solo in parte. Lo scontro vero è probabilmente un altro. Da una parte Banca Intesa, sponsor di Cairo, dall'altra Mediobanca, che attraverso Bonomi ha guidato la controffensiva fallita di Della Valle e Tronchetti. Sullo sfondo uno spettatore molto interessato, Carlo De Benedetti, che forse non ha solo assistito, ma magari dispensato consigli interessati. E vi leggo ancora una parte, poi trovate tutto il resto, pagina 20. Dietro il cambio di guardia al Corriere si è insomma consumato un intrigo il cui obiettivo va oltre il controllo della RCS, una guerra che non si può certo chiudere con l'insediamento di Cairo in via Solferino e con una stretta di mano tra vinti e vincitori. Ne vedremo delle belle, perché quando a questi livelli ci si mena, la rivincita è d'obbligo. Naturalmente la mia segreta speranza, ma credo di molti altri giornalisti, è che invece semplicemente il Corriere, RCS e tutte le testate che sono sotto il grande cappello RCS non siano appunto l'oggetto di una guerra di potere tra potenti, ma che adesso vengano rilanciate, perché più pluralismo dell'informazione c'è in Italia e più siamo tutti contenti, soprattutto se c'è di mezzo storicamente il primo quotidiano italiano, cioè il Corriere della Sera. Ci lasciamo però un attimo per una breve pausa. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancano quelle del Manifesto, che ha una foto di Renzi, scelta anche molto bene, nel senso che c'è un Renzi in primo piano a fuoco e anche un Renzi in lontananza non a fuoco, ma il titolo è veramente divertente ed è Premier Rai tutto attaccato, quindi il Premier, una crasi tra Premier e Rai, il riferimento naturalmente alla questione che anche il Fatto Quotidiano ha messo in prima pagina, cioè che oggi il CDA di Viale Mazzini vota per questa nuova Rai a misura di Renzi, così la definisce il Manifesto, premiate le voci allineate via quelle pluraliste, al TG1 resta inchiodato Mario Orfeo, al TG3 Bianca Berlinguer sostituita con Luca Mazzà e al TG2 viene sacrificato Masi. E tutte le opposizioni hanno detto, ma avete sentito, non solo le opposizioni, anche Massimo Giannini, peggio di Berlusconi. Vi segnalo infine la prima pagina della Gazzetta dello Sport, come ho già detto ieri, si segnala sopra in alto, -1 a Rio 2016, quindi vediamo se domani il titolo sarà su Rio, ma oggi è di nuovo sul calcio italiano, perché continua la, come potremmo chiamarla, la telenovela sulla cessione del Milan, e quindi il titolo Incredibile Milan. Un altro gruppo cinese insieme al super manager Mendes vuole prendere il club, e l'analisi di Andrea Masala è un senso di smarrimento, perché appunto non si capisce di queste offerte quale sia la più seria e soprattutto magari anche quale venga presa in più seria considerazione dai proprietari dell'Inter, cioè da Berlusconi. Torniamo invece spostiamoci sulle pagine interne dei giornali e torniamo sul Sole 24 Ore per parlare ancora una volta di queste strane reazioni che ha la borsa, non soltanto, ma strane reazioni la borsa ne ha tante, però in questo caso due in particolare di questi giorni, cioè da una parte dopo gli stress test di venerdì che avevano deciso quali banche erano più solide a livello europeo, quali banche erano più solide e quali meno, lunedì tutti si aspettavano che la borsa premiasse i promossi dagli stress test, è successo quasi il contrario. E poi un'altra bizzarria della borsa, che a volte anche quando i bilanci, e questo è periodo di pubblicazione di semestrali, anche quando i bilanci sono molto positivi, la borsa reagisce male. E allora l'analisi di Vittorio Carlini, se i mercati dimenticano l'analisi dei bilanci, ve ne leggo una parte. Solo due giorni fa Intesa San Paolo ha pubblicato dati semestrali sopra le attese, eppure il titolo nella stessa giornata ha ceduto il 3,79%, una contraddizione. Così come dopo i voti dell'EBA, l'autorità bancaria europea, quella degli stress test, ha avuto poco senso l'ondata di vendite sull'intero settore degli istituti quotati a Milano, da un lato perché i prezzi già incorporano lo scenario pessimista, dall'altro perché comunque gli stress test non sono stati negativi. Alla fine, insomma, risuona il solito leitmotiv. I mercati, tecnologici e iperconnessi, costruiscono e smontano correlazioni, comprano e vendono, su soglie di prezzo collegate a premi al rischio calcolate da algoritmi. Giocano, soprattutto, al ribasso e si dimenticano dei fondamentali di bilancio. E qui un tema, secondo me, molto interessante per addetti ai lavori, ma anche no, cioè la finanza come universo chiuso e autoreferenziale e che ormai si affida molto alla tecnologia, e invece il collegamento con l'economia reale, per esempio appunto con i dati di bilancio. Dalle pagine del Sole 24 Ore, così come ieri vi avevo segnalato la questione del petrolio e di come, sì, noi parliamo di Libia per i bombardamenti, però per esempio sta succedendo questo, che verranno probabilmente riavviati i pozzi petroliferi in Libia, quindi e questo potrebbe dare una spinta economica al paese. Oggi il focus nella pagina di materie prime del Sole 24 Ore è sull'oro, perché nell'ultimo, dall'inizio del quest'estate c'è stato un po' di altalena, però negli ultimi giorni era molto salito e ieri invece si è un po' fermata questa risalita. Allora ci racconta Barbara Pezzotti, Balduino Cepetelli sul Sole, si allenta la tensione dell'oro perché è risalito il dollaro, e quindi che è legato al fixing dell'oro a Londra. E poi un approfondimento di Barbara Pezzotti Barbara Pezzotti vive in Australia e quindi ha intervistato il CEO della miniera australiana Northern Star di oro, che ci fa capire come comunque qualsiasi scenario economico sia legato allo scenario politico e viceversa. E il virgolettato è: Trump presidente degli USA, allora il prezzo tornerà a salire. Questa la questione, ripeto, spesso sono previsioni che poi bisognerebbe andare a vedere, bisognerebbe tenere via questo articolo e vedere se per caso Trump vincesse, se l'oro salirà, però trovo sempre sia molto interessante vedere come appunto i diversi settori dell'economia, in questo caso le materie prime, si accavallano, si incrociano, si influenzano con le scelte di politica economica o semplicemente di politica. Il focus, ve lo ricordo, il focus estate, questa settimana dedicato, questo oggi dedicato tutto agli investimenti, lo trovate a pagina 28 e 29. Il Corriere della Sera ha proprio intervistato il ministro della giustizia Orlando su tutte le questioni, sulla questione che riguarda l'ISIS, questo allarme sul fatto che l'ISIS sarebbe in qualche modo capace di influenzare i flussi migratori dalla Libia verso l'Italia. Orlando ha parlato anche del fatto che nelle nostre carceri ci sono, si calcola, 300 islamici radicali e che quindi fanno propaganda e sono molto pericolosi. Per questo una delle misure prese dal Ministero della Giustizia di spostare questi islamisti radicali identificati da un carcere all'altro, in modo che non abbiano tempo di radicalizzare altri detenuti. Parla anche di prescrizione, di intercettazioni, ma questo è sicuramente un tema su cui torneremo poi dopo l'estate, quando si ricomincerà a discutere in aula della tanto attesa riforma della giustizia in Italia. Il Corriere della Sera ha anche un'intervista fatta da Federico Fubini al presidente della Bundesbank, che è la banca centrale tedesca, Jens Weidmann, e il titolo dell'intervista è: l'unione monetaria è a un bivio, o si cede più sovranità a Bruxelles o si accettano le procedure di default. Altro tema delicatissimo, perché c'è invece chi soprattutto all'indomani della Brexit, e ricordiamo che tra l'altro il Regno Unito non ha mai fatto parte dell'unione monetaria perché hanno sempre conservato la loro sterlina, ma sappiamo anche quanti in Italia invochino l'uscita dell'Italia dall'euro, e quindi tema molto delicato, perché in realtà il presidente della Bundesbank, e la Germania è il più importante paese europeo, dice esattamente il contrario, cioè che bisogna cedere più sovranità a Bruxelles. Vi dicevo l'inchiesta di Sergio Rizzo, e sì, se ci fosse Alessandro sicuramente mani sul volante, perché ci sono dei dati su questo articolo che trovate alla pagina 11 di Sergio Rizzo del Corriere, dei dati veramente incredibili. Uno li legge, dice, e li rilegge per vedere se ha letto bene. Il titolo è Cassonetti in affitto. Allora vi dico alcune cose: che l'AMA, l'azienda municipalizzata di Roma che si occupa appunto dello smaltimento dei rifiuti, paga 10 milioni all'anno per noleggiare questi 28.000 cassonetti, ma i dipendenti tra il 2008 e il 2010 sono state assunte 1.518 persone, e su 7.800 dipendenti, 7.800, 1.200 hanno in tasca un certificato medico di inidoneità al lavoro. Nel territorio di Roma, altro dato, si smaltisce oggi poco più di un terzo dell'immondizia prodotta contro il 98% delle altre città europee. Ecco, questa è la situazione che ha ereditato Virginia Raggi, e però naturalmente tutto questo si collega al fatto che l'attuale assessore all'ambiente, che si deve occupare anche dell'emergenza rifiuti, è al centro delle polemiche, perché questa signora per 12 anni è stata consulente dell'AMA. Allora, o la sua voce non è stata ascoltata, o forse non ha dato i suggerimenti giusti, se la situazione a oggi è questa. Una interessante intervista di Luigi Ippolito al nuovo ambasciatore del Regno Unito a Roma, che è Jill Morris. Le domande soprattutto di Luigi Ippolito riguardano la vicenda Regeni, il ricercatore italiano che è stato il ricercatore di origine triestina, che è stato ucciso al Cairo dopo essere stato torturato. L'Egitto collabora sì e no a corrente alterna, ma non collabora neanche Cambridge, che è l'università di Cambridge dove Giulio Regeni stava facendo il suo dottorato. Questo nuovo ambasciatore a Roma assicura: interverremo su Cambridge perché sia più collaborativa nel dare informazioni su quello che stava facendo Regeni, su eventuali anche dati che ci fossero nei computer dell'università. Cioè, Cambridge non ha contribuito in alcun modo all'indagine sul perché Giulio Regeni sia stato ucciso. Sempre a proposito di musulmani in Italia e di pericolo radicalizzazione, un'inchiesta della Repubblica, pagine 6 e 7, chi finanzia le moschee, dal Qatar alla Turchia, fondazioni e tanti soldi per l'Islam italiano. C'è proprio una mappa. Intanto ricordiamo che in Italia i musulmani si stima siano 1.613.000, sono 800 i luoghi di culto islamici. In questa mappa si vede la loro densità, sono la densità abbastanza omogenea in tutta l'Italia, e si cerca appunto di capire soprattutto chi finanzia queste moschee, che ovviamente non sono finanziate dallo Stato italiano, anche se, come abbiamo letto, mi sembra, nella rassegna stampa di domenica, proprio in occasione di quella bella iniziativa dei musulmani che sono andati a pregare nelle chiese, alcuni imam hanno detto: vorremmo anche noi l'8 per 1000. In questo momento l'8 per 1000 non va alla grande galassia dell'Islam in Italia. Comunque, sostanzialmente, questi finanziamenti, appunto, si spiega in questa inchiesta, vengono dal Qatar, dalla Turchia e dall'Arabia Saudita. Ancora vi dicevo, uomini contro le donne, uomini che odiano le donne, titola l'Unità. Sì, però c'è appunto il problema delle case rifugio che vengono chiuse, e c'è stato più di un caso di recente perché non ci sono i fondi. E allora, per esempio, a pagina 15 della Repubblica, Maria Novella De Luca racconta, per esempio, che cosa succede in una casa rifugio nella periferia est di Roma, per far capire in che stato arrivano le donne che scappano da un pericolo, da quello che hanno percepito come un pericolo imminente per la loro vita, e per esempio vanno in questi centri di rifugio. E poi un'intervista a Titti Carrano, presidente della rete dei 75 centri Dire, e l'intervista si intitola "Finanziamenti bloccati da 2 anni". Da 2 anni, così si chiude. E lo sdegno non basta, dice, sembra che si preferiscano le iniziative spot che danno visibilità invece di una vera programmazione. Sempre dalla Repubblica, un'altra inchiesta di Marco Patucchi su come sia cresciuto, naturalmente è uno dei tanti effetti della lunghissima crisi economica in cui siamo ancora oggi, sostanzialmente, che è iniziata, si stabilisce che è iniziata nel settembre 2008, dopo che negli Stati Uniti è fallita Lehman Brothers. Tra l'altro, alla base di Lehman Brothers, a proposito di NPL, di pacchetti di debiti cartolarizzati, c'era stato anche lo scandalo dei subprime, cioè quei mutui che venivano venduti e rivenduti e rivenduti. Quindi, di nuovo, la finanza, tutti dicono quella è stata una crisi finanziaria, però poi, come ben sappiamo, ha innescato una crisi nell'economia reale. E uno dei tanti effetti è questo che racconta la ricerca Eurisk, che aumentano le persone in Italia che sono indebitate. La vita a rate degli italiani sempre più indebitati. Per auto, casa e vacanze si paga in media 360 euro al mese, secondo il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, i prestiti non sono solo figli della crisi, ma anche della speranza. Beh, effettivamente si può sempre vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Prima del traffico vi segnalo dal Messaggero invece, sempre a proposito di Rai, forse l'avrete letto o sentito, noi credo che non ne avevamo parlato. In ogni caso, una delle novità di Radio Rai, che è stata affidata a Carlo Conti, era che non ci sarebbe più stato il programma di Lillo e Greg. C'è stata una protesta sui social talmente importante e travolgente che pare che già Radio Rai abbia fatto marcia indietro, e quindi il Messaggero: rivolta sui social, tornano Lillo e Greg, il piano di Conti per la nuova Radio Rai. Ci fermiamo un attimo però per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli per l'ultima parte di questa rassegna stampa. Un ascoltatore ha ragione, dice che dovrei tradurre, non dovrei usare SEO senza tradurlo, perché non necessariamente tutti sanno, e poi soprattutto si potrebbe anche direttamente tradurre. Comunque CEO è un acronimo che sta per Chief Executive Officer, e in italiano possiamo tranquillamente tradurre con amministratore delegato, e quindi terrò presente questo suggerimento. Vi segnalo dal Messaggero una notizia che non ho visto da nessun'altra parte, e riguarda l'Austria. Qualche settimana fa, lo ricorderete, quando c'era sembrato che sì, ci fosse un'altra emergenza migranti o clandestini, come mi suggerisce di dire un ascoltatore, ma io invece preferisco la parola migranti, perché non tutti i migranti sono clandestini, e i migranti sono sempre esistiti, le migrazioni sono sempre esistite, e non è, come dice lui, che prima si chiamano clandestini e adesso migranti. In realtà prima si chiamavano migranti e poi abbiamo cominciato a chiamarli clandestini, ma insomma anche qui ovviamente ognuno può usare il termine che più pensa adatto alla situazione. Ricorderete appunto quando c'era stata la grande per via delle misure prese sul corridoio del Mediterraneo, cioè lì si riusciva a bloccare più navi dei trafficanti d'uomo, e quindi aveva ripreso a essere molto usato la rotta balcanica, il corridoio balcanico, e quindi l'Austria aveva detto: noi sospendiamo Schengen, cioè chiudiamo le frontiere, perché l'accordo di Schengen nell'Unione Europea prevede invece che le frontiere siano aperte ai cittadini dell'Unione Europea. Grandissima polemica, poi non se n'è più parlato, e ora il Messaggero ci racconta: soldati al confine ungherese. Nonostante la fine dell'esodo dalla rotta balcanica, Vienna vuole di nuovo bloccare le frontiere, la definisce un'iniziativa umanitaria. Ci sarà presto un vertice tra il governo austriaco e il governo di Budapest, perché l'asilo non ha senso se è inefficace la politica dei rimpatri. E poi vi segnalo sempre dal Messaggero, e questa è proprio cronaca di Roma, però ci fa capire come al di là delle grandi questioni o magari degli scontri politici che prendono spunto dai fatti di cronaca, poi praticamente che cosa succede al Campidoglio, dove si deve decidere per esempio come risolvere la crisi dei rifiuti. Slittate tutte le prime nomine. Perché? Perché il Campidoglio in questo momento è senza staff, tanto che è stato anche rinviato il provvedimento sulla riapertura dei fori imperiali, che erano stati pedonalizzati da Ignazio Marino. La riunione, ci racconta il Messaggero, è stata interrotta subito perché c'era un vertice alla Camera e dovevano partecipare molti delle persone, dei politici che hanno un doppio ruolo, cioè sia in comune che al Parlamento. Quindi questo poi è come vanno veramente le cose, appunto, ripeto, al di là dei proclami. Dalla Stampa un articolo interessantissimo sugli intoccabili, su quello che sta succedendo in India. Sapete che in India c'è questo sistema delle caste che è sopravvissuto a tutto, è sopravvissuto al colonialismo britannico, alla seconda guerra mondiale. La casta di livello più basso è quella dei Dalit, che vuol dire appunto intoccabile. Adesso si può usare, mentre una volta non si poteva più, ma ci sono finalmente delle ribellioni, delle manifestazioni anche pacifiche finora. Migliaia di questi intoccabili stanno marciando nelle città, in particolare nella capitale, per chiedere che venga abolito il sistema delle caste. La casta degli intoccabili si ribella a secoli di soprusi, ce lo racconta Carlo Pizzati. Ieri, per esempio, nel Gujarat, in India, sono scese in piazza 25.000 persone, e tra l'altro 20 di questi, dei più giovani di questi Dalit, di questi intoccabili, responsabili hanno anche tentato un suicidio di massa di protesta e uno è effettivamente morto. A proposito di giganti che crescono, perché l'India è un po' l'eterna promessa economica, diciamo, si dice da tanti anni che quando finalmente l'economia del paese partirà, anche solo per un fattore demografico, l'India diventerà una delle superpotenze accanto alla Cina e forse scavalcheranno Cina e India l'America, che in questo momento gli Stati Uniti, che in questo momento restano la prima economia del mondo. Però la Cina ha già battuto gli Stati Uniti, ci racconta Valentina Arcovio sulla Stampa, nell'Olimpo della ricerca. Nature, una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo, stila la classifica dei centri più produttivi al mondo. Anche, per fortuna, l'Istituto Italiano di Tecnologia è entrato in questa classifica. Però, appunto, i cinesi hanno scavalcato come presenza in questa classifica gli americani. A proposito di riforma dell'Unione Europea, il presidente della Bundesbank nell'intervista al Corriere parla soprattutto di aspetti economici e finanziari, però ci sono tante altre storture nella burocrazia dell'Unione Europea, denunciate da più parti, spesso dalla Lega, con toni molto accesi, ma ci sono molti dati di fatto dietro a queste denunce sulle assurdità di alcune leggi dell'Unione Europea, oltre naturalmente ad assurdità come il fatto che c'è una doppia sede del Parlamento Europeo, una è a Bruxelles e una è a Strasburgo, e questo raddoppia i costi, ma ripeto, ce ne sono tante. E qui Carlo Nicolato ci racconta, per esempio, gli uffici, quelli che lui definisce gli uffici mangiasoldi della UE, quelli che si occupano, non so, della lunghezza del cetriolo o di quanto deve essere lungo un gamberetto, e molte di queste misure decise appunto da enti che così giustificano la loro esistenza sono poi difficilissime da applicare o addirittura poi molto nocive. In questo caso parliamo di settore dell'agricoltura, per gli agricoltori. Il Fatto Quotidiano continua il suo viaggio, la sua inchiesta nel mondo della droga. Ricorderete martedì la prima puntata con il reportage dal Cocoricò di Riccione, a distanza di un anno dalla chiusura di quella mega discoteca perché era morto un sedicenne per un overdose di ecstasy. Ieri un'inchiesta sulle discoteche di Milano. Oggi invece un'altra inchiesta, parla il narcotrafficante Lenny Barsanti, suppongo sia uno pseudonimo, comunque Davide Milosa ci racconta che questo narcotrafficante spiega come si riesce, uno dei tanti metodi, alcuni dei metodi con i quali si riesce a introdurre cocaina in Italia. Per esempio la si infila nei cani, quindi i cani, non soltanto tutti quei cani che si vedono negli aeroporti addestrati, dei cani antidroga, però usati anche per trasportarla invece. La coca diventa invisibile ai raggi X. Sull'avvenire vi segnalo quella che mi sembra un'ottima notizia, specie in un paese come il nostro, dove notoriamente gli stage non sono pagati, mentre in tantissimi altri paesi lo sono. Qui magari c'è un rimborso spese, però invece in molti altri paesi c'è un piccolo vero stipendio. Monica Zornetta ci racconta la storia della Everis Italia, dove gli stagisti vengono pagati 1000 euro al mese. Questa è l'Unità, sì, l'Unità, ecco, torna sulla corsa, che è ancora lunga perché abbiamo ancora tutto il mese di agosto, settembre, ottobre, poi all'inizio di novembre si vota per sapere chi vincerà tra Hillary Clinton, candidato dei democratici, e Donald Trump, candidato dei repubblicani. Avete sentito delle ultime gaffe in ordine di tempo di Trump. L'Unità però si concentra su come Hillary Clinton stia puntando al voto degli afroamericani. Le statistiche li vedono sempre dalla parte sbagliata: più carcere, violenza, salari più bassi. I loro voti saranno decisivi nei cosiddetti swing states, cioè quegli stati in bilico. I repubblicani li ignorano, Clinton invece apre le porte. Il problema in America, forse lo sapete, è che non ci si può alzare una mattina a prendere la tessera elettorale e andare a votare, bisogna preregistrarsi, e a volte molti elettori, tant'è che in generale la partecipazione alle elezioni negli Stati Uniti è molto bassa, molti elettori questi non lo fanno, quindi poi non vanno a votare, perché quando magari gli venisse di votare all'ultimo momento comunque manca il passaggio precedente, che è quello della preregistrazione, e quindi alla fine non votano. Perciò c'è un doppio lavoro da fare: convincere gli elettori bianchi, neri o di qualsiasi altro tipo a preregistrarsi e poi anche convincerli a votare per te, in questo caso nel caso di Hillary Clinton. Bellissimo reportage sul manifesto dal sud del Sudan. A 5 anni esatti dall'indipendenza di questa parte del Sudan, il paese è travolto dalla violenza. Lo scontro tra Dinka e Nuer, due etnie, così un po' come erano in Ruanda, anche lì c'era, alla base del genocidio c'era, semplifichiamo molto, una rivalità tra etnie, quindi questo scontro continua a mietere vittime e crea milioni di sfollati. Pensate che solo nell'ultimo mese sono scappati da questa guerra civile in 60.000, una delle tante storie africane, ma non solo, che vengono raccontate un po' così a corrente alternata anche in questo caso. Dal Foglio vi segnalo una cosa divertente, anche se c'è un ascoltatore che dice che uso troppo la parola divertente, ma insomma è il primo aggettivo che mi viene in mente. Il Foglio mi sembra inauguri, non so se sarà forse un caso isolato, comunque oggi fa una parodia della maca di Michele Serra. Michele Serra viene tacciato spesso dal Foglio di essere un moralista o un moralizzatore, e questa finta maca si intitola, che è la rubrica che Michele Serra tiene sulla Repubblica, la maca che sulla RAI che non leggerete mai. Cioè, secondo il Foglio, adesso non c'è tempo di leggerla, comunque il senso è: Michele Serra non ha fatto il moralista indignato sulla RAI per un semplicissimo motivo, che anche lui è lautamente retribuito dalla televisione pubblica, perché per esempio è uno degli autori di Che tempo che fa, mi sembra di sì, la trasmissione di Fabio Fazio. Passiamo alle Olimpiadi, di cui ci occuperemo sicuramente tantissimo nei prossimi giorni, perché Maria Luisa Colledani, l'inviata del Sole 24 Ore, continua a raccontarcele dalle pagine di commenti e inchieste, e in questo caso ieri poi naturalmente l'articolo di oggi è anche di cronaca, perché ci racconta l'arrivo di Renzi. Stato qui su Radio 24, naturalmente sapete che tutti convocati alle Olimpiadi tutti i giorni dalle 14, poi quando le Olimpiadi inizieranno anche dalle 18 con Carlo Genta e tutti i suoi ospiti, quindi seguiremo anche qui a Radio 24 naturalmente con grandissima attenzione le Olimpiadi, e Maria Luisa Colledani ci racconta l'arrivo di Renzi, ma anche un po' che aria si respira in questo momento al Villaggio Olimpico. Un'ultimissima segnalazione per tutti gli amanti di cani e di gatti, dal giornale Oscar Grazioli ci racconta come sia nata, come stia crescendo la figura del pet sitter, cioè le persone che si occupano dei nostri animali quando non ci siamo. E invece su Libero viene recensita questa guida di viaggio per gattofili, edita da Mursia, che racconta dove in Italia si possono trovare dipinti, libri, luoghi particolarmente dedicati ai gatti. Ultimissima segnalazione, grazie a Peter Bescapè in regia, e ricordate sempre c'è Ma che estate è, e subito dopo di noi la trasmissione estiva condotta da Elisabetta Fiorito. Ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.